Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Siamo qui ancora a parlare del curato d'Ars, il consueto appuntamento col curato d'Ars. Un appuntamento, spero, carissimi, sempre gradito, vero? Gradito e fruttuoso, sia per i sacerdoti come per i laici. E ricorderete che noi stiamo parlando, dalla volta scorsa, di un momento particolare della sua lunga giornata, vale a dire del celebre catechismo delle undici. Perché abbiamo spiegato l'altra volta che il nostro santo, negli ultimi 15-20 anni della sua vita, quando cioè il flusso dei pellegrini si era fatto intensissimo, aveva preso questa buona abitudine, anzi l'aveva messo propriamente nei programmi della parrocchia, cioè alle 11 precise sospendeva ogni altra attività, quindi usciva dal confessionale e dopo un suono di campana andava a sedere al famoso pulpito o cattedra dei catechismi, che non era il grande pulpito delle prediche, delle omelie, che era molto più vistoso e stava molto più in alto, ma era solo, diciamo, un piccolo rialzo, una specie di predella, con sedia e piccolo banco, dove si potessero appoggiare dei libri, da cui il catechista teneva la sua lezione con molta semplicità, proprio spezzando il pane del Vangelo ai piccoli e ai poveri e stando al loro diretto contatto. Quindi non un catechismo, un'istruzione tenuta dalla cattedra, ma piuttosto una discorrere familiare del padre coi suoi figli, stando in mezzo ai suoi figli, senza alcun artificio retorico, ma usando semplicemente il linguaggio comune che si usa comunemente nel discorrere consueto quotidiano. Ecco, prima ancora, carissimi, di fare qualche riflessione su tutte queste cose, io vorrei aggiungere ancora queste poche notizie. Prima di tutto che alla sua predicazione accorreva gente di ogni luogo e di ogni condizione. Dice qui il biografo, dal cristiano fervente e pio al bello spirito che pretende di sapere tutto, tranne si intende la sua religione. E dice che qualche volta, uniti ai pellegrini, stavano anche preti e vescovi. Ma questo, dice, non preoccupava il nostro predicatore, che pensava solo alle anime e che si sarebbe presentato con uguale incantevole semplicità, senza nulla cambiare, anche se fosse accorso ad ascoltarlo il Santo Padre in persona, circondato da tutti i suoi cardinali. Quindi l'uditorio era sempre molto vario, molto eclettico, per cui non era possibile fare un discorso particolare, con un linguaggio particolare, che fosse adatto a quella tale categoria di persone che ti ascoltano, come sempre auspicabile, ma era necessariamente un discorso generico, con un linguaggio generico. Però noi siamo certi, carissimi, che era così grande la sua chiarezza, la sua semplicità, che chiunque l'avrebbe capito, vero? Anche i bambini, anche gli analfabeti e forse anche i fatui. Sta di fatto che lo ascoltarono anche persone distinte, persone illustri e anche molto illustri, e tutte ne riportarono sempre ottima impressione. Ripeto, anche se il suo modo di parlare poteva sembrare fin troppo semplice e fin troppo spoglio e quindi poco adatto agli uomini di cultura e in genere ai palati fini. Voglio fare solo un esempio molto bello, che sappiamo che un vescovo, certo Monsignor Allù, vescovo di Meaux, soggiornò al castello di Ars per ben 8 giorni, appositamente per seguire i catechismi del Santo Curato. E dice il biografo che non mancò a nessuna istruzione e ne partì molto meravigliato per la sapienza che trovava in questo sant'uomo. E sappiamo che anche i missionari, i cosiddetti missionari che vennero ad aiutare il santo, quando fu più intenso il pellegrinaggio, anche i missionari si univano ai pellegrini, confondendosi tra la folla, ogni volta che gli impegni lo permettevano. Sì, è vero, dicevano i missionari, Don Vianney può anche ripetersi certe volte, ma la sua parola ha sempre qualcosa di nuovo. Ecco, e qui allora, carissimi, permettete una prima piccola riflessione. Vorrei riflettere un attimo con voi sul linguaggio. Il linguaggio nel nostro ministero di evangelizzatori ha un'importanza capitale, vero? Se noi vogliamo comunicare anche le cose più belle, più avvincenti, ma usiamo un linguaggio sbagliato, noi, a causa della nostra negligenza, della nostra testardaggine, che non vuole assolutamente uscire da certi schemi, noi disperdiamo o rischiamo di disperdere stupidamente un patrimonio preziosissimo. Ecco, una delle leggi fondamentali dell'evangelizzazione è proprio questa, secondo me, cioè la legge dell'adattamento, che non è altro se non un'applicazione della legge dell'incarnazione, vero? Ecco, Cristo cosa ha fatto? Si è incarnato, è sceso sulla terra, che vuol dire che non solo ha assunto la nostra natura di uomini, ma ha abbracciato proprio in pieno la condizione umana, escludendo il peccato naturalmente, però assumendo tutto il resto, calandosi quindi nel bel mezzo della condizione umana, abbracciando un corpo concreto, una cultura concreta, che è quella ebraica, un linguaggio concreto, delle abitudini concrete, eccetera. E ha trasmesso il Vangelo agli uomini del suo tempo proprio adattandosi alla loro cultura, alla loro mentalità, al loro linguaggio. Quindi adattandosi al loro modo di pensare, di intendere le cose. Certo diverso da altre civiltà, da altre culture, che non fossero quella ebraica e quella ebraica di quel determinato tempo. Anche se dobbiamo dire, carissimi, che il linguaggio di Gesù, o meglio, il linguaggio di Gesù, come ci viene trasmesso dai Vangeli, è un linguaggio, si direbbe, un po' universale, vero? Che si adatta a ogni cultura, a ogni popolo, a ogni concezione della vita. Basta qualche minima spiegazione, per esempio sulle abitudini di quel tempo, che il linguaggio e il messaggio del Vangelo viene inteso da chiunque. Si direbbe per una specie di miracolo. Ecco, comunque ripeto, la legge dell'adattamento è una legge fondamentale per chi vuole evangelizzare. E se tu devi parlare a una persona di Cristo e del Vangelo, tu devi adattarti a quella persona. Cioè devi calare il Vangelo nel concreto della sua vita, della sua storia, della sua esperienza. Devi studiare possibilmente qual è il suo carattere, la sua psicologia. Qual è il suo grado di cultura? Quali sono i suoi interessi? Quali sono le sue aspirazioni? Quali sono le sue speranze concrete? Eccetera, eccetera. Ecco, quindi devi tenere presente che non hai davanti un pezzo di serie, ma hai davanti una creatura umana viva e concreta, simile sì, ma anche diversa da tutte le altre creature umane. Sappiamo che le creature umane hanno tutte qualcosa in comune, vero? Sì. Appunto perché sono tutte partecipi della stessa natura umana. Quindi seguono tutte, per così dire, certe leggi e certi schemi fissi. Ma sappiamo anche che ogni creatura umana è in certo senso anche un mondo a sé. E tutto ciò, carissimi, chi fa opera di evangelizzatore lo deve sempre tenere ben presente, deve tenere presenti gli schemi fissi che formano, per così dire, il substrato comune della natura umana, ma devono tenere presenti anche quelle che chiamerei le varianti, cioè le caratteristiche personali, originali di ogni creatura umana, o se non altro le caratteristiche di gruppo, Per esempio le donne hanno un loro modo di ragionare diverso dagli uomini. Simile ma anche diverso. I vecchi, gli anziani hanno un loro modo di ragionare diverso dai giovani, simile grosso modo perché segue gli stessi meccanismi mentali, le stesse leggi della logica, sì, ma anche diverso. E così per esempio uno che viene da una certa cultura orientale, per esempio indù, ha un modo di ragionare diverso da uno che viene dalla cultura anglosassone o dalla cultura latina o dalla cultura ebraica. Anche qui, ripeto, simile, perché tutti i cervelli, tutti i cuori degli uomini hanno un substrato comune, ma anche diverso, e a volte molto diverso. Quindi, come ripeto, l'evangelizzatore non può prescindere da tutte queste cose. Ogni uomo, o se non altro ogni gruppo di uomini, è un caso a sé. E io devo, ho il compito di adattare il messaggio, di adattare il Vangelo alla sua situazione concreta. Quindi il messaggio che gli voglio, gli devo trasmettere, va incarnato. E sappiamo tutti per esperienza, carissimi, quanto sia difficile questo passaggio, vero? Questo calarsi nella realtà concreta. Perché è difficile? Semplicemente perché noi, essendo fatti in un certo modo, tendiamo sempre a portare noi stessi, a comunicare noi stessi. E anche quando noi vorremmo scomparire, no, per trasmettere solo Gesù e il suo Vangelo, spoglio da ogni paludamento umano e da ogni ingerenza umana, da ogni ingerenza anche personale, noi ci accorgiamo che invece questo non è possibile. Perché noi tendiamo sempre a comunicare il Vangelo partendo dalla nostra testa, dalla nostra cultura. Noi porgiamo sempre un Vangelo già digerito da noi. Ecco, non è mai possibile separare il Vangelo dall'evangelizzatore. Ma l'evangelizzatore deve comunque sempre sforzarsi di scendere dal piedestallo del suo io per adattarsi alla condizione concreta dell'evangelizzato, capite? Allora qui, carissimi, tornerei un attimo al curato d'Ars per dire questo. Il curato d'Ars, abbiamo detto, aveva davanti un uditorio, in quei famosi catechismi delle 11, un uditorio molto eclettico, molto vario. Dai rozzi contadini della zona di Ars, su fino ai preti, ai vescovi e ai dotti filosofi. Per cui si imponeva una scelta, quale linguaggio usare per essere intesi da tutti e per poter far breccia nel cuore di tutti. Ecco, io penso che il nostro santo non si preoccupasse troppo di queste cose. Del resto forse non aveva neanche il tempo di preoccuparsi. L'unica sua preoccupazione qual era? Era un'altra, era quella di invocare lo Spirito Santo, perché gli desse un linguaggio adatto e fruttuoso. Non solo un linguaggio, ma proprio un modo di argomentare adatto e fruttuoso. Ecco, quindi attenti, se l'evangelizzatore deve tenere presente il tipo di persone che ha davanti, proprio per rispettare la loro personalità e la loro mentalità, e quindi in definitiva per poter far breccia nel loro cuore, tuttavia non deve essere questa la prima preoccupazione, no. Sappiamo che noi poveri uomini, per quanto ci diamo da fare e studiamo il nostro prossimo, ossia studiamo gli altri poveri uomini come noi, tuttavia riusciremo a cogliere solo un piccolo frammento, una piccolissima fetta della loro personalità e del loro mondo interiore. Pensateci un attimo. Se non siamo capaci nemmeno di scoprire il mistero che c'è dentro di noi, immaginate un po' se riusciamo a scoprire il mistero profondo che si cela nel cuore altrui. È solo un miracolo, solo una grazia speciale ci può svelare questo mistero. E allora cosa fare? Ecco, non rimane che affidarsi allo Spirito Santo, lo Spirito che ci fa parlare in un certo modo, molto limitato, parziale, molto legato alla nostra situazione, alla nostra mentalità, alla nostra cultura, molto legato cioè alla mentalità, alla cultura dell'evangelizzatore, ma lo Spirito, attenti, che a sua volta si serve delle nostre povere parole umane per parlare al cuore degli ascoltatori e per parlare in un modo efficace che riesce a toccare, a scuotere e a cambiare il cuore di chi ascolta. Quindi la nostra massima preoccupazione deve essere quella di invocare lo Spirito che ci faccia parlare nel modo giusto, primo. Quindi invocarlo anzitutto per noi stessi e secondo invocarlo anche molto per i nostri uditori, appunto perché le nostre povere parole umane abbiano la forza di scuoterli, di convertirli. Fermo restando che noi dobbiamo prepararci bene, il meglio possibile, e fermo restando che dobbiamo fare uno sforzo di adattamento alla situazione concreta di chi abbiamo davanti. E se davanti ci stanno persone di ogni specie, come accadeva al curato d'Ars, dobbiamo usare un linguaggio e un modo di argomentare il più semplice possibile, che possa raggiungere il maggior numero di persone possibile. Ma comunque, ripeto, al di là di queste preoccupazioni umane, di queste precauzioni umane opportune e necessarie, ci deve stare l'invocazione dello spirito, cioè la consapevolezza che non stiamo trasmettendo cose umane, valori umani, ma stiamo trasmettendo la parola di Dio. Perciò qualcosa che supera, che va oltre gli schemi umani e che segue delle leggi, delle regole tutte particolari, spesso misteriose e talvolta persino illogiche, almeno apparentemente. E se volete un esempio biblico, carissimi, io penso che basterà aprire Atti 2, dove si racconta appunto la Pentecoste. A un certo punto il pubblico, la folla, si chiede: ma costoro che parlano non sono tutti, non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Atti 2, 7 e seguenti. Ecco, un fenomeno davvero impressionante e del tutto insolito e incomprensibile. Gli apostoli che parlano sono tutti Galilei, quindi parlano in linguaggio dei Galilei. Eppure ciascuno li sente parlare nella propria lingua. Certo, è lo Spirito che opera questo prodigio. E da quel giorno, carissimi, dal giorno di Pentecoste, questo prodigio direi che si ripete e si rinnova continuamente. È vero che noi mischiamo sempre il Vangelo che predichiamo alla nostra cultura, al nostro modo di pensare, da cui non possiamo affatto liberarci, sì. Ma è anche vero che intanto lo Spirito parla al cuore degli ascoltatori, di modo che le nostre parole non cadono nel vuoto, ma sono intese e recepite proprio in base alla situazione concreta della persona, in base quindi alle sue necessità, alle sue esigenze spirituali e in base al grado di grazia che possiede o che non possiede. E comunque adesso, carissimi, per tornare al curato d'Ars, vorrei dire altre due o tre cosette per finire. Prima di tutto, che la gente non frequentava i suoi catechismi per ascoltare un predicatore. Questo è importante. E no, vedremo subito che il nostro santo non aveva la grinta, la stoffa del predicatore, non aveva neppure la voce del predicatore. No, nulla di tutto questo. Ma la gente andava ai catechismi, dice il biografo, per intendere la voce di un inviato di Dio, ecco. Quasi novello Giovanni Battista, iniziato ai segreti dell'aldilà. Ecco, non sappiamo se Giovanni Battista avesse la voce più o meno forte, ma comunque non era quella, non è quello che interessava la gente. Ma era piuttosto il fatto, la consapevolezza che Giovanni Battista era un uomo in contatto con Dio, era un uomo di Dio. Ecco, per quello la gente correva. E così è stato anche per il curato d'Ars. Non importava alla gente che lui facesse discorsi più o meno profondi o più o meno ben costruiti. No, interessava solo che attraverso di lui parlava loro il Signore. E quando il Signore parla, qualunque cosa ci dice, è oro colato e scende nel cuore come luce, come grande luce e come balsamo che illumina, che riscalda, che solleva. Ecco, dobbiamo poi dire che pur seguendo un certo ordine, una certa successione logica di argomenti in base alle domande e risposte del catechismo, tuttavia il curato d'Ars tornava volentieri su certe idee, su certe verità preferite, che un sacerdote che lo ascoltava spesso definì idee madri. Cioè lui iniziava il catechismo leggendo il libro, no? A quel punto dove era arrivato il giorno prima. ma poi deponeva il libro sulla mensola del pulpito e, come guidato dallo Spirito, si librava nei vasti, negli sconfinati orizzonti per elevare l'uditorio, se fosse stato possibile, fino alle soglie dell'infinito. Dice il biografo che la sua parola era piena di eternità. Il suo sguardo di fuoco si posava ora sull'uno, ora sull'altro dei suoi uditori, quasi avesse voluto far penetrare fino in fondo al loro cuore la lama della sua parola, con la quale sferzava il vizio, malediceva il peccato, ma più spesso cantava le gioie e le bellezze dell'amor di Dio. Ecco, l'ultima cosa che possiamo dire per oggi, dato che la mezzanotte sta avvicinandosi, e poi riprenderemo senz'altro la prossima volta, Dio piacendo, è la seguente: che non a tutti arrivava il suono debole della sua voce. Il nostro santo aveva una voce molto bassa, piuttosto bassa a quanto pare, e a quel tempo purtroppo non c'erano i microfoni. Ma comunque, dice il biografo, che le sue grida, i suoi singhiozzi erano sufficienti perché tutti si commuovessero fino nel più intimo del cuore. Ecco, quindi più che nutrire il cervello, il curato d'Ars nutriva il cuore degli ascoltatori. Il suo compito in questi catechismi delle 11 non era quello di impartire un corso regolare di catechesi, anche perché i pellegrini poi se ne andavano, no? E cambiavano continuamente. Ma era quello, ancora una volta, di scuotere le coscienze per convertirle a Dio. E perciò anche di preparare le coscienze a un lavoro metodico e regolare da parte della Chiesa, capite? Che sarebbe venuto dopo. Sapete che questa è una distinzione che abbiamo già fatto? Un conto è il missionario e un conto è il pastore. Il missionario scuote la coscienza, la converte e poi se ne va. Il pastore invece è quello che poi nutre la coscienza in modo regolare, in modo sistematico, sfruttando all'inizio il lavoro del missionario, ma poi facendo il suo lavoro. Capite che ci vogliono tutte e due queste cose. Una dipende dall'altra. Ed eccoci, carissimi, al nostro consueto appuntamento col santo curato d'Ars, il santo curato modello di ogni sacerdote e modello di perfezione per ogni cristiano. E per la terza volta consecutiva noi ci dedicheremo ancora al celebre catechismo delle 11. Ricordo che stiamo in questi mesi esaminando un po' la sua giornata, vero? Lunga e faticosa. E intanto cerchiamo di fare qualche riflessione su quella che dovrebbe essere un po' la vita e lo stile di ogni sacerdote. E io credo, carissime, che qui il curato d'Ars ci dà veramente tanto, tanto buon esempio. Mi sono chiesto tante volte chi glielo faceva fare di sobbarcarsi questa fatica quotidiana di spiegare il catechismo ai pellegrini. In fondo non gli bastava il successo personale che otteneva presso di loro? Perché volle strafare? Non era più opportuno che durante quest'ora, dalle 11 a mezzogiorno, si prendesse un po' di riposo prima del pranzo? Beh, carissimi, prima di dare un verdetto di condanna o di assoluzione del nostro santo, io cercherò di mettervi davanti agli occhi alcuni elementi. Siamo una specie di processo. Alcuni elementi a favore e poi a sfavore. Primo elemento. Il curato d'Ars a quest'ora certo era già cotto, come si usa a dire, vero? Sappiamo che era già rimasto in confessionale tutta la notte, dall'una alle sette, confessare le donne. Poi aveva celebrato la messa e si era ben presto rimesso in confessionale circa dalle 8 alle 11 per confessare gli uomini, con un solo breve intervallo per la recita del breviario. Quindi era sicuramente già cotto. E certo per non scoppiare un piccolo diversivo ci voleva, ci voleva. Però, carissimi, a guardar bene si direbbe che il nostro santo non avesse molta fantasia, vero? Poteva scegliere certo un diversivo migliore. Migliore che non quello di rimettersi al lavoro per catechizzare la gente. Non so, poteva farsi una bella passeggiata, per esempio, o una bella dormita, dato che era così in arretrato di sonno. Ecco, viene da chiedersi perché sceglie un diversivo tanto faticoso ed estenuante, che lo obbliga a spremere le meningi e a cavar fuori la poca voce che gli è rimasta. Ecco, questo è il primo elemento per formulare poi un giudizio di assoluzione di Candano. Il curato alle 11 del mattino è molto stanco e ha bisogno di svagarsi. Ma sembra che come diversivo se ne scelga uno un po' troppo faticoso. Secondo elemento che dobbiamo senz'altro prendere in considerazione. Il catechismo delle 11 era diretto, era rivolto ai pellegrini. E sappiamo che i pellegrini, proprio in quanto pellegrini, sono quasi sempre persone di passaggio, vero? Che non si fermano nel luogo del pellegrinaggio. Che non si fermano se non qualche ora o qualche giorno al massimo, una settimana al massimo. Perciò il curato d'Arsi in pratica si direbbe che sprecava il suo tempo. E mettiamo pure che lui facesse un corso regolare di catechesi ben ordinato, ben concatenato, con una successione logica di argomenti. Ma mi chiedo, come potevano i suoi uditori afferrare questo nesso logico se si fermavano ad Ars non più di 2 o 3 giorni? Una settimana al massimo? Non è forse vero che in 2 o 3 giorni tu riesci a stento ad abituarti all'ambiente, cioè all'aula scolastica, al modo di parlare dell'insegnante, eccetera? Quindi anche per questo secondo motivo si potrebbe forse concludere che il nostro santo, con quella lezione quotidiana di catechismo, sprecasse il suo tempo, vero? Ma ora, carissimi, c'è un terzo elemento che ci rende ancora più perplessi e almeno dal punto di vista umano squalifica in pieno la fatica del nostro eroe. Cioè il fatto, scrive il biografo, che non a tutti arrivava il suono della sua voce. Cioè il curato d'Ars aveva una voce così bassa che pochissimi riuscivano a intenderla, diciamo solo i più vicini, quelli che erano in prima fila, per spiegarci. Perché attenti, quelli in seconda fila già stentavano a capire. Abbiamo già detto, se ricordate, che il nostro santo per questi catechismi delle 11 evitava di salire sul pulpito grande e si limitava a sedere su una specie di piccola cattedra dove c'era una sedia e una specie di banco che serviva anche da leggio. Ma questo, a pensarci bene, carissimi, era un errore tecnico molto notevole, vero? Va bene il suo desiderio di stare in mezzo alla gente, come Gesù che spezza il pane del Vangelo alle folle, no? Ma bisogna anche considerare che in questo modo la sua voce arrivava molto meno lontano e si fermava, si smorzava già al primo banco. Eppure, a quanto pare, i risultati c'erano. E anche vistosi, anche grandiosi. Attenti, vi propongo solo questo piccolo episodio, che mi sembra assai significativo, che certo è uno dei tanti episodi circa questa ora di catechesi nella chiesa di Ars. E riguarda precisamente una suora della congregazione di San Giuseppe, che si chiamava Suor Maria Gonzaga, la quale, dice qui il biografo, aveva provato una certa antipatia per Don Vianney, ed era ben lontana dal credere a tutto quello che di meraviglioso si diceva di lui. Allora sentiamo come lei stessa ci descrive il suo primo impatto con Ars e col suo santo curato. Dice: quando scendemmo dalla vettura, suonava la campana del catechismo ed avendo la mia superiora deciso di andarvi, fui costretta anch'io a seguirla. Appena entrata nella chiesa, i miei occhi si incontrarono con quelli del santo, che passava per andare al suo piccolo pulpito, e ne provai una specie di vertigine. Profondamente turbata, caddi a terra in ginocchio, fino a quando mi sentii tirare per la veste da una donna, forse Caterina Lassagna, che mi prese per una mano, consigliandomi ad avvicinarmi di più, perché in quel luogo non avrei inteso nulla. Mi lasciai guidare e giunsi fin davanti al piccolo pulpito, ma anche là non intesi che poche parole sulla conformità della nostra volontà al volere di Dio e sul merito dei patimenti. Ma piansi tutto il tempo e i miei sentimenti nei riguardi di Don Vianney erano radicalmente cambiati. Ecco dunque, a quanto risulta, la suora entra in chiesa proprio alle 11 precise, mentre il santo si porta alla piccola cattedra dei catechismi. E appena incrocia il suo sguardo, viene preso da una specie di vertigine, che sconvolge il suo animo e la costringe a mettersi in ginocchio. Ma avete notato che una donna la prende per la veste, anzi la prende per la mano, e la conduce proprio davanti, fin sotto il piccolo pulpito. Certo, perché potesse udire meglio le parole del santo. Ma dice la suora che neanche qui era possibile afferrare distintamente la sua voce. Ma si udiva, si intendeva al massimo solo qualche parola e il senso approssimativo di quel che diceva. Eppure com'è che la suora viene presa da questa strana commozione, per cui non riesce a fare altro che piangere tutto il tempo? Beh, vediamo ora, carissimi, un altro episodio. Un certo Pietro Oriol, benestante, che in seguito si stabilirà ad Ars, diventerà uno dei custodi del nostro santo, lo vide per la prima volta appunto mentre faceva il catechismo. E pensate, come lui stesso dirà in seguito, la prima parola che udì pronunciare dal santo gli scese così tanto nel cuore che l'avvertì come un rimprovero di tutta la sua vita. Notate, Pietro Oriol non riuscì a seguire tutta la lezione, anzi, non afferrò che una sola parola. Ma questa sola parola ebbe così tanta forza presso di lui da cambiare completamente la sua vita. Adesso sentiamo un terzo episodio, però adesso un attimo di silenzio, così vi concentrate meglio. E ora leggo il terzo episodio come esempio. Dice: circa la medesima epoca veniva ad Ars un medico di Lione con molti parenti e amici. Non era un incredulo, in quanto era cresciuto con buoni principi, ma non aveva nessuna idea di ciò che fosse un santo, e tantomeno dello spettacolo che lo attendeva. Era appena incominciato il catechismo, e Don Vianney finiva di dire le prime parole, quando il medico fu preso da una gran voglia di ridere. Tutti lo guardavano con più scandalo che meraviglia, ed egli si sforzava di nascondere il viso fra le mani. Ma il curato parlava sempre, e non erano ancora passati 5 minuti che dagli occhi del medico cominciarono a scendere lacrime non più dissimulate, che gli bagnarono le guance. Ecco, quindi un medico, e dicendo medico si pensa subito a una persona seria, vero? Un medico non miscredente, ma neanche credulone, venuto ad Ars sembra più che altro per curiosità. Beh, appena inizia il catechismo, chissà com'è, chissà perché, viene preso da una gran voglia di ridere. Naturalmente la piccola folla dei presenti lo guarda con sdegno, con rabbia. E certamente lui prova molta vergogna per quello che sta succedendo, ma non può farci niente. È più forte di lui. Ma come avete sentito, non passano 5 minuti che i suoi occhi sono già bagnati di lacrime. E le lacrime scendono dai suoi occhi sempre più abbondanti, fino a bagnargli tutto il viso. E lui non solo non prova più vergogna, ma lascia libero sfogo alla sua commozione. Ma ora, carissimi, sempre lasciando in sospeso la domanda iniziale, se cioè il curato perdeva il suo tempo o meno a fare il catechismo delle 11, voglio darvi altri elementi di valutazione, un processo regolare. Si dice che l'uditorio viveva col predicatore, cioè si commuoveva e piangeva con lui. E un giorno, attenti, predicando sulla miseria dei peccatori e gemendo come al solito, il raccoglimento fu interrotto da un'esclamazione. Esclamazione sfuggita a una donna che era lì presente fra gli uditori. «O Signore, date anche a me almeno una di queste lacrime!» Ecco, ora, carissimi, sentiamo anche una voce contraria, ed è proprio quella di un sacerdote che si chiamava Don Teodoro, un missionario. Sentiamo le sue precise parole, dice: «A questo catechismo, al quale avevo pensato prima con tanta compiacenza, confesso di non aver capito molto. Ogni istante involontariamente mi ponevo la domanda ansiosa: dunque, che cosa vuole insegnarci?» Ecco, sembra un parere negativo, ma dobbiamo osservare, carissimi, che questo sacerdote era andato ad Ars esclusivamente per avere delle risposte circa il suo avvenire. Per cui dal discorso del santo lui non voleva tirarci fuori degli insegnamenti divini, ma solo delle risposte ai suoi quesiti. E queste risposte che lui si attendeva non vennero se non dopo, quando lui poté incontrare il santo a tu per tu. Ma comunque, carissimi, come già abbiamo detto la volta scorsa, altri pellegrini, anche distinti, traevano invece molto frutto da queste lezioni e non si stancavano di ascoltarle, di frequentarle, come per esempio quel famoso vescovo che si fermò 8 giorni al castello di Ars presso i conti di Garé appositamente per frequentare il catechismo delle 11 e trarne buon frutto per la sua alta missione pastorale. E così anche i buoni missionari che erano venuti ad aiutare il santo negli ultimi anni di vita non mancavano di mischiarsi alla folla e di seguire attentamente queste, diciamo, elevazioni quotidiane. E loro stessi dicevano che Don Vianney poteva anche ripetersi, sì, ma la sua parola aveva per loro e per tutti sempre qualcosa di nuovo. Allora, carissimi, arrivati a questo punto, possiamo anche tentare una risposta al quesito iniziale. Dunque, ricapitolando, alle 11 del mattino il curato aveva bisogno di un diversivo. E quello di fare il catechismo non può essere certo considerato come un diversivo ideale. Secondo, il catechismo era rivolto ai pellegrini, perciò delle persone sempre diverse, che non si fermavano a darsi non pochi giorni, e quindi con la possibilità di seguire solo qualche frammento del suo corso di catechesi. Terzo, per di più, la sua voce era talmente bassa che non consentiva di capire quasi nulla se non pochissime parole isolate. Beh, ce ne sarebbe abbastanza, vero, per pronosticare un pieno e completo fallimento, vero? Invece no. Il Signore ancora una volta si diverte e rende questa ennesima fatica del curato d'Ars molto molto fruttuosa. Non importa se la gente non riesce a capire, non importa, ma comunque vede bene le lacrime del santo, e queste lacrime scendono nel profondo del cuore, scuotendolo e convertendolo, e chi frequenta questi catechismi ne esce sempre rinnovato. E allora noi ci chiediamo come mai poteva succedere una cosa del genere, che pur senza intendere il senso delle sue parole si veniva così tanto stimolati alla conversione? Beh, penso, carissimi, che la risposta sia molto semplice. L'uomo ha bisogno sì di argomenti logici e razionali che nutrano il cervello. Ma carissime, dobbiamo subito dire che l'uomo non è solo cervello, eh? E anche il suo cuore va nutrito. Anzi, nell'uomo il cuore, direi, ha prevalenza sul cervello. Per cui la prima cosa che l'uomo deve capire non è tanto il mistero A o il mistero B, non è una serie di verità da credere, ma è piuttosto, direi, il mistero dell'amore di Dio verso di noi, ecco. Cioè deve capire di essere amato prima di tutto, deve capire che questo Dio è un Dio buono, è un Dio misericordioso, sempre pronto al perdono. Ecco, poi verranno anche gli argomenti razionali, sì, poi verrà anche un corso regolare di istruzione religiosa, di catechesi, sì, ma se l'uomo non parte da questa considerazione che Dio lo ama, che Dio lo perdona, ecco, tutto il resto non gli porta nulla. Tutto il resto gli sembrerà solo fredda teoria, vero? Ecco, quindi il curato d'Ars era questo che dava alla gente, non un corso regolare, ma dava le basi della fede. La fede è anzitutto un rapporto con Dio, un rapporto quindi vivo con una persona. Ed è logico che tu quando entri in rapporto con una persona, rapporto d'amore, è logico che ti interessi di quella persona, è logico che vuoi conoscerla sempre meglio, vuoi saperne sempre di più. Ma questo perché? Appunto perché la ami. O meglio perché ti senti amato da lei. Ossia il rapporto che crea interesse. Altrimenti tutto si raffredda. Quindi possiamo dire benissimo che il santo curato dava le basi della catechesi. Cioè creava nell'anima i presupposti fondamentali dell'istruzione religiosa. Appunto perché l'istruzione religiosa non resti soltanto fredda teoria, ma sia riscaldata dal fuoco dell'amore. E allora qui, carissimi, possiamo tentare qualche conclusione applicando questo discorso alla nostra vita concreta e quotidiana. Prima conclusione. Il curato d'Ars, pur oberato di impegni e pur stressato oltre ogni limite, sentiva il dovere di istruire i pellegrini nella loro fede. Quale esempio per noi sacerdoti? Noi sacerdoti che chissà perché in questi ultimi decenni abbiamo abbandonato in massa questo sacrosanto dovere, questo sacrosanto servizio della catechesi. Forse perché temevamo l'insuccesso, forse perché il linguaggio ci sembrava troppo antiquato, forse perché i tempi hanno camminato troppo in fretta e non siamo riusciti ad adeguarci altrettanto in fretta alla mentalità e al linguaggio dei tempi. Sta di fatto che, pigrizia o no, i nostri fedeli hanno perso la possibilità di potersi nutrire, di potersi istruire. E noi abbiamo smesso di mettere a loro disposizione i verdi pascoli, i pascoli erbosi e le acque tranquille, come dice il Salmo 22,2. Ecco, quindi la prima cosa che ci insegna il curato d'Ars, secondo me, con questo suo catechismo delle 11, appunto il dovere che noi abbiamo di istruire la gente, opportune ed importune. Va bene che ci sono anche le prediche della domenica, va bene che ci sono anche altre occasioni per istruirci, ma ciò non toglie che noi dobbiamo fare anche un lavoro sistematico, non solo occasionale. Un lavoro che comprenda tutte le verità di fede ben ordinate, ben concatenate, ben catalogate. E che comprenda poi tutti i dettami della morale cristiana, anch'essi ben concatenati, ben collegati. Ma che comprenda anche, direi oggi, la conoscenza sistematica della Bibbia, facendo conoscere uno per uno tutti i vari libri della Bibbia, sia del Nuovo come dell'Antico Testamento. Ripeto, è un lavoro non solo utile, opportuno, ma indispensabile, a cui noi sacerdoti dobbiamo senz'altro tornare, costi quel che costi, pena un severo giudizio da parte di Dio, il quale alla fine Non mancherà di farci osservare che la gente, oggi più che mai, è assetata di queste cose, data appunto la vuotaggine dei tempi. E noi, pur vedendo la gente assetata, abbiamo continuato a coltivare la pigrizia, il disimpegno, ci siamo dedicati solo alla costruzione materiale della comunità. Poi attenti, una seconda cosa che possiamo imparare dal celebre catechismo del curato d'Ars, secondo me, è proprio il valore delle lacrime. La gente non udiva la sua voce, ma osservava le lacrime. E questo era sufficiente perché il catechismo ottenesse il suo scopo. Ecco, attenti, un catechismo che non converte e che fornisce solo delle nozioni non è un buon catechismo, secondo me. Anzi, è un completo fallimento. Perché? Perché sarà solo comunicazione di cultura, senza un rapporto vivo col Signore. Sarà solo questione di idee e non invece la relazione con una persona. Ecco, quindi carissimi, se dobbiamo pregare che i sacerdoti tornino a esercitare questa missione di catechisti nei riguardi del popolo di Dio, dobbiamo anche pregare che lo facciano in un modo vivo, dove ci sia un'intima partecipazione del catechista, dove il catechista viva quel che insegna e quindi lo trasmetta in modo partecipato e palpitante, in modo proprio da commuovere l'uditorio e da strappare tante conversioni. E aggiungo, volesse il cielo che anche i fedeli si sentissero attratti dal fascino della loro fede e fossero loro stessi a chiedere al sacerdote di catechizzarli. Ecco carissimi, io penso proprio che se i sacerdoti hanno desistito, hanno mollato, e anche per questo, per la cattiva volontà dei fedeli, che se da una parte sono molto bisognosi di cibo, perciò molto ben disposti a riceverlo, dall'altra parte però sono anche molto indolenti. E pur di restare nella loro pigrizia, di non essere scomodati, preferiscono rimanere nell'ignoranza. Quindi il curato d'Ars è un rimprovero per sacerdoti e fedeli, per tutti. La sua vita è un rimprovero per ciascuno di noi. Quindi la catechesi è qualcosa di molto importante, di molto necessario, che un po' tutti dobbiamo riscoprire, preti e laici, ognuno nel suo ruolo, ognuno in base alla sua missione, ai suoi carismi, al suo grado di grazia e di sapienza. Ecco, io credo proprio, carissimi, che lo Spirito Santo e la Madonna esigano oggi uno sforzo comune che coinvolga la Chiesa a tutti i livelli e in tutte le sue componenti. Il curato d'Ars ci ha dato l'esempio. A noi ora il compito di imitarlo, considerando naturalmente che i tempi sono cambiati, che bisogna applicare, adattare, adeguare questo discorso ai tempi nostri, aggiornando sì, ma anche conservando. Perché ricordiamolo sempre che Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.